attenzione, binario 10, cambio. Binario 10, cambio. Ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora. C'è qualcuno qui? Hola, hola, prova, prova. Hola, hola, hola. Hola, 1, 2, 3, hola, 1, 2, 3, prova, prova. Hola, hola, 1, 2, 3, prova, prova. Hola, hola, hola. E cosa c'è? Cos'è che c'è? Uè, Claude. Ma c'hai troppo eco, cos'è? Boh, troppa ripetizione c'è, cosa stai usando? Claudio. Perché stai uscendo così? Come sto uscendo? Cambio. Non stai uscendo bene. C'è questo riverbero e poi la modulazione è tutta un po' masticata. 1, 2, 3, prova, guarda così. Sembra una modulazione diversa. C'è un altro apparato. Sento lontano io, una modulazione un po' strana. Ho detto che ti sento molto strano, tira sul Mickey Gain, c'è solo questo riverbero, ma la radio non ne sento io. Guarda così, 1, 2, 3, prova. Sì, 1, 2, prova. Tutto con i bassi stai uscendo, sembra che ti stai mangiando il microfono, non lo so. Guarda così se va bene, adesso ho tutto quanto, adesso la radio è normale, dai. Ma non è bella già, se vuoi ti registro e te la conto su WhatsApp. È molto una radio, sento questi toni bassi, molto, non so neanche come dire, la prima volta che non riesco a esprimermi su questa radio, non so, non è bella già comunque. Lo sai, io sono schietto. Questo è il Cobra, lo sto facendo saldare un po' perché era da molto sempre usato. Con la verità, non mi è atteso, non sta buttando due parti. Questo dopo il mese è quello di darmi un po' per vedere come lo sto. E vabbè, comunque me lo posso saldare un po' più. Per fare gli altri. Dato che stavo dicendo, lo so che gli altri. Non so di che Agostino parli. Anch'io sto usando il Cobra con l'MB più 5, a potenza minima però, potenza ridotta, sono 20 watt, 25 watt di portante, 80 modulati, perché l'altra è troppo alta, l'altra è 80 di portante e 120 modulati, è troppo alta. Che Agostino è? Agostino Benzino, non ce l'ho presente, se non mi mandi una foto o qualcosa non ce l'ho presente. Cosa è successo? Morto? Allora, mi sono fatto due mesi in pensione, certo, sono tra cavalcata, e Agostino, sono lavorato. Infatti io sto temendo ancora andare in pensione già, capito? Non lo so, io se vuoi ti faccio sentire il microfono normale del mio, devi aprirlo per appena, ecco, non so, che modello è il Cobra che c'hai tu, come questo? No, questo qui è il Cobra, quello cavolato, non si usa un po' troppo. Leggermente più di ecco, non dare reverbero, va. molto più chiara e fa molto meglio. Niente, io ho abbinamento qua Cobra GTL 200 DX con l'MB più 5. Ti stavo dicendo, ti ricordi quando hai fatto la Ginara delle Sì, ma io non so che questi due c'è con Claudio. No, io non ci sono andato lì. Io lì non ci sono andato alla Ginara perché stavo lavorando, capito? Quindi non c'ero. Perciò per quello che ti dico che no, se vedo una foto la conosco. Te lo dico. Però così non riesco a capire chi è, capito? Va bene, va bene. E quindi questo abbinamento va bene? Stavo cercando, per poter fare l'esperimento ho dovuto comprare un MB più 5, io ho l'MB più 4 che però non ha le connessioni di questo, capito? Allora siccome non lo volevo cambiare per il DAC, allora mi ha aiutato Gigi Vulcano perché gli ho comprato l'MB più 5 e questo è quello suo modificato. E in più mi ha fatto l'adattatore per usare questo microfono, lo stesso col DAC, capito? Quindi fortunatamente sono andato bene, dai. Va bene che va bene. No, già spinge. Tieni conto, ti ho detto che sono alla potenza minima. Se metto la massima è troppo forte, no? Non fa modulare con 80 watt di portante, 120, 130 modulati, ma dalla 3 ne era quasi 200, 185 ne era, figura di 2, più del 440 lavora questo baracchino. Ragazzi, ciao Ale. Allora, come, che si dice? E chi è questo? Chi è? Beh, Vali, come siamo? Non ti riconosco, no? Non ti riconosco, dimmi, chi sei? E dai, indovina, aiuto, indovina. Non lo so, dai. Gianni, doppio, Rum. Ah, tu sei, quando in vicinanza non mi riconosco. E perché? Dove te la trovi? Sono qua a visita parenti al cimitero. Devo sempre venire, sempre rimandando, e dopo adesso vengo. E così mo trovo a mezz'ora. E vabbè, ancora zona comunque. Ah, si è portato a Reservoi? No, a Sassari. Qua al cimitero. Adesso me ne sto andando. Gappa. Vabbè, dal segnale non è che l'ho notato molto. Arrivi forte anche ad Alghero, quindi pensavo che eri in zona Alghero, dai. Vabbè. Ho contatto dagli alberi qua. Cosa vuoi fare? Niente. Ma cosa è successo alla Formula 1? Oh, non lo so, è successo qualcosa, non lo so, io non l'ho vista. Stavo sentendo in radio, ho detto quel disastro alla Formula 1, non so che è successo, se si è fatto male qualcuno o la Ferrari ha preso fuoco, speriamo. Perché speriamo? Che non mi interessa quella Formula 1. Ah, non ti interessa, a te ti interessa solamente la Juventus! La Juventus e MotoGP, ma la Formula 1 no, non mi interessa. È una cosa che non mi riguarda. E niente. Sì, beh, stavo guardando tutto lo sport, ho visto che non siamo andati male, non sono andate tutte bene. Il Napoli stava giocando col Benevento, già si può punire una squadra di Serie B. Mi va a pigliare 5-6, 7, non lo so. Vabbè, comunque la Juve ha vinto fuori casa 3-1, quindi sono più che soddisfatto. E allora già va bene, dai. Cioè va bene così, vabbè, non è che seguo lo sport oppure la Formula 1, no, non è che mi interessi più di qual tanto, capito? Allora, che non lo so che cosa è successo. Neanche io lo so, ti ripeto, stavo ascoltando in radio in HF, anzi in VHF, l'ho sentito così. so qualcosa, però cazzo ne so. Siamo gli alloggi. Ma sei disponibile adesso? No, sto coglione, guarda qui. Sei disponibile adesso, perché altrimenti me ne vado dal ghetto. Io sono in pigiama. Se passi 5 minuti scendo e te lo... non c'è problema. Allora aspetta, adesso qui sono... aspetta un attimo, vediamo un po' adesso come devo fare per venire in quella zona. Per venire in quella zona mi fai tutta la 131, rientrare da Via l'Italia e sei tranquillo, capito? Così devo fare, perché adesso la... devo fare proprio così. Altrimenti è un casino, no, al centro non ci passo, sarà casino. Ho preso la 131, dai. Scusa, la 131 casino, non trovi e fai 5 minuti. Entri in Val Italia, giri via Budapest, vai sempre dritto, dai carabinieri, capito? E arrivi in un baleno. Io scendo e te la do. Perché sono in disabili. Tanto già da una parte qui, così te la piazzi, capito? Claudio. Dimmi già. Sì, mi dispiace, ma devo chiudere che non ho telefonato. Siamo in dubbio. Sentiamo là, statemi bene tutti quanti, ho voluto ascoltare la tua radio, sono contento che tu abbia questa radio. Quando dici di iniziare la dima, la ciao. Già. Costa più di un HF, quindi non conviene venderla, per il momento la teniamo, dai, se dovessi decidere già te lo dico. 560 euro l'ho pagata, quindi vedi tu quanto la posso dare. Ciao, scattami bene. Ma dopo vale bene. E allora vincia. Ah, no, pensavo che stavo così. Ciao anche a te, Valerio, dai, un pugno a capo, ci sentiamo, un viaggio per almeno. Ciao. No, sto andando da Claudio, sto andando. Mi deve dare qualcosa. E poi dopo che me ne vado, faccio proprio una toccata e fuga. Ciao, ciao, buon corretti, buona serata, buon tutto. Non te l'ho riconosciuto. Porca miseria. Riprendi, Claudio. Ehi, ciao, già, ci sentiamo nel prossimo, dai, stammi bene. Gappa. E allora, ci ho già spiegato tutto, ci sentiamo, ciao. Ciao, divertiti. Mi stai staccando le orecchie, Claudio. Ehi, così forte, cosa posso abbassare? C'ho il Mickey Gain, quanto è? Adesso neanche a metà, esce, lo abbassiamo un pochino, vai, tu. Avanti, lo abbassiamo, l'ho abbassato di 2 tacche, meglio va adesso. Ah, così va bene, così è di lusso, no, troppo forte era, sì. Vabbè, perché sei anche in zona, va. Era metà, l'ho messo a 3, 4, prima era a metà, capito, a 5, 6, adesso è a metà. Va bene, dove sei arrivato? Ah, non dirmelo, no. Non dirmi, no, sto andando via. Aspetta, ancora non l'ho presa la strada lì per via l'Italia. Dunque ci sto per arrivare, vediamo un po'. Sì, ci sto per arrivare, dai. Basta accelerare, tanto vivo da dove vieni tu, dall'uscita di via del Porto Torres, bocca della 131, arrivare all'ingresso via l'Italia ci metto 3 minuti con la 600, con la 147 salgo sopra e guarda il rene. Io vado piano, capito, non c'ho freddo. Ah, così, KK. Avvisami quando sei sotto, allora. Quando ci sei quasi, dai, così scendo e te la porto. Almeno ti rabbiazzi. Eia, così me lo piazzo. Ma è perché questo qua, ogni volta dopo gli ho da casa, portarlo in macchina, non va bene. Questo qua deve stare a casa, questo capolante che c'ho. Capito? No, questo è proprio da macchina. Io l'avevo comprato per quando avevo il baracchino in macchina, che avevo anch'io la 48 modificato, quindi l'avevo messo con le due vitine perché c'è la staffa regolabile eccetera, e l'avevo montato lì proprio da macchina, capito? E anche questo qua che ho io è da macchina, guardate che è un po' più grande, vi sa, di quello che c'è tu. E va bene, ma va bene dai, comunque sto per arrivare. E che c'è un po' di macchine davanti, sono lente, capito? E io ti ci pigli la breccia, se mi metto il pantaloncino. Ecco fatto, e noi Gege. E già sto arrivando, poi ci sono qua i carabinieri o la polizia, così. No, carabinieri, e sono davanti. Via, fra 3 minuti esce qua. Sempre dritto, mi hai semafori. Hai semafori? E già. Se non ricordo, Ah, ecco, perché non vorrei magari che facessi qualche rotonda sul mare lì e tornassi indietro. No, già la so la strada, no, non mi sbaglio, no. Ehi, vabbè, non è riferito a te, capite? Uno una volta è venuto a prendermi. Dove c'è? Ah, carabinieri, sto arrivando. Boh, esitente, sono sceso giù. C'è l'auto come di Maggi. È arrivato al semaforo lì, ha girato a sinistra, c'è entrato a San Semplicio. Così? No, già la conosco la zona, dai. E boh, ma ci ho detto, dai carabinieri, sempre dritto, semafori, rotonde, sempre dritto, sali in alto per andare a Scalaricciocca. Sì. Ha girato a sinistra, c'è entrato a San Semplicio, si è anche perso. Sono dovuto andare a prenderlo. Dice, ma lo vedo? Non vedo antenne, non vedo... Sì, ma dove sì? Voglio come? Se le antenne si vedono dalla rotonda, come fai a non vedere le antenne? Ma non è che era Marco, no? Che si era perso, no? Non era lui. Io non volevo fare nomi, ho capito. No, secondo me avevo sentito tutto lì al baracchino quando stava venendo da te, che si era perso. Marco, non c'è Marco? Nascosto, è al mare, non sta ancora dormendo. Ah, Platamone della fidanzata che dice c'era freddo ieri notte, sicuramente è andata a portarle qualche coperta. Ah, la fidanzata è andata. Ah, vabbè, a me non aiuta, poverina. Allora, vale, così è. Allora, ha fatto buco ieri il dottor Bella. Stava girando intorno al palazzo, non mi trovava. Ma se sono qua io, cosa? Boh. Oh, via. Io lo sapevo perché... Aspetta. Lo sapevo perché... Vabbè, perché già ne avevi l'avevo sentito da te. Poi, una volta, venendo qua, in questa zona... Ecco qua, antenne, eccole là. E ho visto tutte queste antenne e ho detto, ma ho pensato, ma non è che Claudio c'è in questo palazzo? E poi vedi, che si è trovato. Beh, ci vuole poco, ho messo dall'85 qua. Quando sono andato a Mila per 2 anni e mezzo, 3 anni via Pascoli, c'era sempre la Mantova, non l'ho tolta. Poi quando sono rientrato qua l'ho cambiata perché era tutta frasica. Capito? Però è sempre lì allo stesso posto dove è sempre stata la Mantova. E poi vabbè, ci sono aggiunte le direttive e le altre cose. Vabbè, la Mantova, cosa è stata? L'hai lucidata? Qua, no, c'è un'entrata qua, davanti ai cancelli. Aspetta, scendendo, l'ho già lucidata, è nuova la mantova, ce l'avrò un paio d'anni, l'avevo messa nuova e l'altra lo stesso si era rovinata. Sto scendendo, vai. Ehi, allora, aspetto altre 5 minuti e poi glielo do. Dove sei tu? La seconda, c'è la seconda. Ma sei già in uscita da Sassa o io sei ancora dentro Sassa? No, c'è un po' di macchine davanti, sono ancora dentro. Ah, ho capito, Dio, va bene che va bene. Va bene, dai. Dalle passeggiate, dal mare, dal mare proprio no, dopo dalle passeggiate, allora c'è un po' di traffico. Beh, oggi era, dai, non era una brutta giornata, non era neanche tanto bella, ma comunque chi si è voluto spostare già va bene, dai. Sì, secondo me oggi era bello andare a passeggio, passeggiare. Sì, a passeggiare. Io te l'ho detto, mi sono... mi sono riposato, ho girato su sto stamattina, ho fatto colazione, poi sono andato all'Eurospin a fare un po' di spesa, sono rientrato a mezzogiorno e mezza, sono rientrato presto perché a mezzogiorno e mezza c'era la partita della Juventus e quindi pranzando mi sono goduto la partita, poi un riposino pomeridiano e siamo qua. Adesso il cane, mi sistemo il cane e poi la serata è finita, gappa. Gappa, gappa. Tutto rotatorie, ce ne sono poche rotatorie qua. Ci hanno fatto bene, sì, a fare tutte queste rotatorie. Veramente era uno schifo, con tutti questi semafori. Con le rotatorie almeno non hai problemi, capito? Sì, no, è molto traffico più veloce. Più scorrevole il traffico, capito? Sì, diciamo che sono fuori dell'uscita, Cioè, cosa, via l'Italia qua, via Rockefeller, una cosa del genere. E vabbè, sei già in uscita da Sassari, quindi no, non c'è problema. Mi senti sempre, sì? Cosa la comanda? Se non ti sento io vuol dire che sono settantenna non lo so. Tu senti tutto, sei in alto, certo che devi sentire tutto. Marco, ci sei Marco? Vengo a Sassa, non lo sento mai Marco, mai. Te l'ho detto, è andato dalla ragazza a Platamona a portarle la coperta per stanotte che c'è freddo. La prossima volta invece vi viene a Sassa e vado a Porto Torre, vado a cercare questa signora. Ma te vai a Platamona tu, a Platamona, la rotonda di Platamona, capito? Lì c'è la fermata dell'autobus, c'è una pensierina, lei dorme lì e sta lì, abita lì, capito? Platamona, ho capito. Platamona, alla rotonda di Platamona, no? Mitica, capito? Lì c'è una pensierina e lei sta lì sotto. Adesso devo andare piano perché adesso vabbè qua no, però più avanti ho visto perché si mette la polizia, vabbè qua no, qui siamo ancora vicino a Sassari, una volta che lascio tutto a Sassari, siccome io ho il piede pesante devo tenerlo leggero, perché c'è sempre la polizia in quella, andare verso la chiesa c'è sempre la polizia. Stai attento, io l'altro giorno stavo andando ad Alghero, lì a Olmedo e c'era la polizia, capito, con l'autovelox sotto il ponte lì, dello scorrimento veloce, capito, quindi, poi lì c'è limite velocità non so a quanto, sulla camionale, quindi, poi piano ci arrivi lo stesso. Sì, a 90, tutta 90, fino ad Alghero è tutta 90. A 90, sì. Ero la 600, io stavo andando al Medo, mi ha sorpassato una macchina per poco mi cappotta, a me mi sarà stata 150, 180. Cazzo, te ne esci un cane, ti ammazzi. Come strada è pericolosa, non è come l'autostrada che è tutta chiusa, gli animali non ne passano. Qua basta qualsiasi cosa, un animale, un gatto, un cane, anche un cinghiale durante la notte, capito? Non è pericolosa, molto pericolosa, non bisogna correre. Io non ho visto ma correre, io ho visto Ferrari camminare, ma di brutto vabbè, e quelle non possono andare a 90, cosa vanno a 90? A 90 devono andare in prima, neanche, in prima fanno già 150, non hanno bisogno di strada, però quella purtroppo è una strada così, a parte il fatto che è molto pericolosa per me, c'è il manto stradale che fa schifo, ci sono certi dossi, certi avvallamenti da paura, secondo la velocità che hai prendi il volo vai direttamente all'aeroporto. C'hai ragione, è brutta, c'è molti dossi, soprattutto quando piove, no? Che questi dossi si riempiono d'acqua, fare un autoplaning, è molto pericolosa. Quel limite vuol dire che uno non può andare oltre, perché è pericoloso, molto, molto, molto, bisogna stare molto attenti, io devo andare sempre piano, cioè sì, ci sono delle volte che, insomma, no, un po' questo passo, come stanno? Minimo a 150, minimo, vabbè, fuori, a manetta, però ogni colpo è stato forza, ogni volta che prendevi i cavallamenti io volo dentro la macchina. Sono tutto dicendo, io ero a 90, 100 con la macchina piccola, stavo andando al Medo, dovevo ritirare della roba lì a casa di un collega, siccome la macchina di servizio ce l'ho a Sorso, l'ho preso la mia e da Sassari. Ma ti dico, ma stare con gli schifosi, guarda, allucinante, come fanno a correre? Se sbagli lì, prendi il volo, te l'ho detto, arrivi diretto all'aeroporto, pronto lì a prendere l'aereo. Sì, guarda il tratto nuovo che hanno fatto, che praticamente congiunge poi lì alla cantoniera della strada vecchia per Olmedo. Sembra manco un campo di calcio, è così. Stai già svincolando? Da lì poi devi andare piano, sì, se no è un casino, capite? Se no è un casino, va bene. E vabbè, da Porto Torres, da Sassari potevi fare nuovamente la 131, farti un giro a Porto Torres e poi facevi la strada dei due mari, solo che adesso la strada dei due mari è più trafficata di quella. Già la conosci quella lì, la fai da Alghero, fai la strada dei due mari per scendere a Porto Torre, se non penso che fai la camionale per poi fare doppi chilometri. Ma perché camper ci sono in circolazione ancora? Ancora traffico c'è? Se c'erano appostati qualcuno l'hanno pizzicato sicuramente. Aspetta che do a mangiare a Filippo. Oh, vale, un secondo, già ti ripesco subito. Attenzione Franco! Dove sei arrivato, Valì? Via, controlla, già sono qua. Sì, ma dove lo senti? Sotto, al fianco, dove? Davanti, dietro? Vabbè, devi guardare, devi sentirlo bene. Per vedere da dove arriva, da. Ma scusa, ma quando stavi venendo a Sassari te lo faceva o l'hai sentito adesso? Magari hai preso qualche buca adesso. Sta toccando qualche passaruota. Non so, bisogna sentirlo per saperlo. Ma le macchine, qualche rumorino si sente sempre. Mi ammarco, mi. Ci date di sì. Oh, ero sveglio tutta la sera. Ma chi è Santiago Zero? Valerio, e come mai sta arrivando Zero? A te sta arrivando Zero, qua è Santiago Nuovo, in macchina. Dove sei arrivato, Valerio? Sentito, l'hai matto? Sì, sì, adesso sì. È salito notevolmente. Vabbè, stavo facendo roba a Claudio, quindi non posso entrare ancora, se riesco più tardi. Ti volevo dire, lo sapevi che la Marcucci è in liquidazione? Sta chiudendo, dopo tanti anni di ruberie, perché era caro come il sangue, è in liquidazione. Quindi, come che stesse chiudendo, passando a qualcun altro le concessioni, le importazioni ICOM o quello che è. Sì, come ha fatto la Kenwood, che ha passato liquidazione, l'ha comprata la IAES, capito? Ha iniziato a rifare le stesse sigle, anziché che mettere TS e metteva FT, come l'FT 450, anzi che il TS 450 e così via. Vabbè, va bene, va bene. Ehi, non abbiamo niente da comprare, stavo chiuso io con Marcucci, Vespucci e Miraciucci. Vai, va lì, e magari adesso mettono radio a parte di magazzino, capito? E li fanno fuori. Ma a me poco mi interessa, vale, io ce li ho le mie. Ne ho 3 HF, quindi io vabbè, sono sempre spente, tra l'altro. Cosa mi interessa? Ce l'ho io la Yaesu, ma c'ho Yaesu, te lo sai, quindi non me ne ho fatti nulla. E quindi non sei uscito da nessuna parte, Marco? No, no. Alla fine non... per andare agli stessi posti me ne sto a casa, dai. Stavo guardando roba al computer, video soprattutto, solo che sono in inglese, per capirli devo mettere i sottotitoli, che sono allo stesso tempo in inglese, però vedendo lo scritto lo capisco di più, ma parlato no, è un casino, un macello. Ok, e quindi dai, ritorno là, eh? Peraltro sto per mangiare, quindi non potrei comunque stare al baracchino. Se posso entro più tardi, se no pazienza, dai, ci sentiamo un'altra volta. Riprendi Valerio, io chiudo, dai. Ciao Marco, lì, sentiamo dopo, io aspetto che Valerio arrivi a casa. Nel frattempo che lui stacca tutto e magari rientra dopo da casa, io mi porto il cane, capito? Ciao, buon pranzo, dai. Se ce la fai, entra dopo, già tutto acceso qua. Ok, così mi stemo il cane e magari mi trattengo. E non esiste, Valerio. Vabbè, devi cercare di avere pazienza, pazienza. Sì, sì, come faccio? Noi? Sempre Santiago Rovo sei qua, non sei calato per niente. Ti lascio attaccato, quando arrivi lo stacchi, intanto stai camminando, la macchina è in moto, quindi sfruttalo. Magari non secondo dove poi entri, no, non ti sento neanche io, ma molto difficile. Io ti sento anche sotto casa tua senza lineare, però col 440, con questa magari ti sento, non ti sento, capito? E io vabbè, se no già posso sollevare la potenza, non è quello il problema, è regolabile qua. Adesso sono a potenza minima, ma già c'è anche la radio, quindi nonostante il segnale già esce bene anche di radio, perciò già mi senti lo stesso. Cappa, sì, quella roba lì la puoi mettere sotto dove mi hai fatto vedere, va benissimo, non disturba, e così ti liberi quel vanoggetti lì, e già c'è il cavo lungo, puoi mettere anche sotto, anche dove non si vede, non te ne frega niente, tanto c'è la staffettina sua, capito? Metti due vitine piccoline e poi inserisci quello e già va bene. E io invece quando non c'ho acqua nello spruzzavetri metto dietro le macchine che si stanno lavando il vetro. Mi ho comprato io dello spin che lo vendo, guarda ci avessi anche lì ad Alghero, quello spray per gli insetti, capito? Te lo metti un pochino nella vaschetta e funziona, funziona. Quando passi il tegicristallo li toglie completamente, non so a base di che cos'è, e lucida anche il vetro. Non sono, te lo tieni in macchina perché c'è anche spray da spruzzare sul vetro, e quando arrivi poi te le togli, capito? Va bene, va bene. Quanto ti manca arrivare a casa ancora? Ma Angelo chi? Angelo Bliffo? Non era morto. Ah, io di un giorno non lo sento, Tania. Ancora? Si è tolto l'antenna proprio questa volta, non entra più. Aveva ripreso un periodo e poi niente da fare. Vabbè. Comunque mi ascolti lo stesso, anche con la potenza bassa, no? E allora va bene. Allora già va bene, mi sa che lo mettiamo in posizione, sto baracchino, lo lasciamo fisso, dai. Ehi, Avalè, allora se sei arrivato, tutto bene, un abbraccio, se ci sei ci sentiamo dopo, dai. Nel frattempo adesso mi preparo e vado a portare il cane. Ok, a dopo. Ehi, Avalè, ci sentiamo dopo, ciao. Ehi, ciao Eugenio, sto andando a portare il cane, dove sei? C'era Valerio in macchina che era a Sassari, ma è già arrivato ad Alghero, capito? Vabbè, non ti preoccupare, ci saranno tante occasioni per sentirci, dai. Ci sentiamo dopo, Eugenio, che vado a portare il cane. Ciao, a dopo, ciao.